Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette minuti, inizia l'ultima puntata della settimana di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria: tiene banco ancora l'Europa, o meglio l'Italia in Europa, perché mentre è palese lo stallo nell'individuare i presidenti delle Camere, quindi della Camera e del Senato, beh, oggi il tema al Consiglio europeo avrebbe dovuto essere, lo è in parte, anche la politica estera dell'Unione Europea. Ricordo che non partecipa il premier italiano Mario Monti perché è rientrato appunto in Italia per partecipare all'insediamento delle Camere, ma ancora c'è l'eco della lettera di Mario Monti di ieri, perché dicevo il tema dovrebbe essere il salvataggio di Cipro e c'è una posizione anche sulla Siria, ma in realtà le dichiarazioni sono tutte, quelle più pesanti, hanno tutto come oggetto l'Italia. Perché lo dico? Perché il premier francese Hollande ha detto che bisogna imparare la lezione dall'Italia, o la lezione che arriva dalle elezioni italiane, e quindi l'Italia, c'è un rischio che a forza di un risanamento fatto troppo in fretta, vi è il rischio del rigetto dell'Europa da parte dei cittadini. Questa è la lezione che possiamo apprendere dall'Italia. È difficile trovare una maggioranza in Italia, ha continuato il premier francese Hollande, mentre Angela Merkel ha detto di non avere mai auspicato una grossa coalizione, una coalizione allargata per l'Italia, ha aggiunto la cancelliera, non ho abitudine di interferire con la politica interna degli stati. E poi il leader dell'Unione Europea, Jean-Claude Juncker, ha detto il risultato elettorale dimostra un rifiuto evidente della politica dell'Unione Europea, un rifiuto massiccio della classe politica in Italia o la predisposizione degli italiani a credere a gente che fa finta di voler loro bene ma di cui si conosce la furbizia, tant'è che le agenzie titolano gli italiani credono alle favole. Ora io dico, uno lo può pensare come vuole, ma quando ha il ruolo che ha Juncker dovrebbe stare un po' più attento a dare un giudizio, insomma, di un italiani popoli che credono, popolo che... ognuno lo può pensare come vuole sull'esito del voto, ma un conto è il giudizio di un privato o di un cittadino e un conto è quello di chi guida l'Unione Europea, perché insomma dire che italiani, gente abituata a credere a chi fa finta di voler loro bene ma di cui si conosce la furbizia, insomma mi sembra un giudizio un po' tranchant, un po' forte espresso da quei livelli. Detto questo, e da questo punto di vista, parleremo di come l'Europa stia anche osservando lo stallo ulteriore in cui si è ficcata la nostra politica. Ripeto, non si riesce nemmeno a trovare un accordo sulla presidenza delle due Camere. In apertura invece apriremo lo sguardo anche alla Cina, perché mentre da noi non si riesce a trovare nemmeno il presidente delle Camere, da ieri Li Keqiang è il nuovo primo ministro cinese che succede a Wen Jiabao, è considerato un tecnocrate riformista maestramente prudente, sostenuto da Hu Jintao, e Li avrà come il suo predecessore Wen Jiabao il ruolo di super ministro dell'economia, e questo è l'ultimo atto del processo di successione che in Cina si svolge ogni 10 anni, che era iniziato, lo ricorderete, nel novembre scorso col 18° congresso del Partito Comunista Cinese. È considerato un principe, nel senso il padre era uno dei rivoluzionari della prima ora, e però riformista negli ultimi anni della sua vita. Cerchiamo di capire anche che cosa cambierà nelle politiche economiche cinesi. E poi per quello che riguarda invece la giornata, ci sarà come sempre la borsa. Oggi la borsa non è preoccupantemente in calo, meno 0,30% Milano, meno 0,30% anche Francoforte, peggio fa Parigi, meno 0,70% e Londra, meno 0,60%, l'America perde lo 0,20% sul Dow Jones. Tra i titoli assistiamo a realizzi sulle generali meno 2,55, Mediobanca meno 2, Enel meno 1,70 come Fiat Industrial, Intesa San Paolo meno 1,40 come Enel, ST Microelectronics meno 1,30, UBI Banca meno 0,90. Invece fortissima di nuovo la Popolare Emilia Romagna più 9,74%, A2A più 5,35%, altre banche, e mi riferisco al Banco Popolare più 3,40%, la Popolare di Milano con il 3,2% di rialzo, Ansaldo più 3%. E ancora oggi sono i conti di Unicredit, l'utile del 2012 è a 865 milioni di euro, il dividendo è di 9 centesimi, torna quindi all'utile il gruppo Unicredit. Come reagisce la borsa? Quasi non reagisce, più 0,11%. Il quarto trimestre in realtà è in rosso di quasi mezzo miliardo, anzi di più di mezzo miliardo, a causa di 4 miliardi e 600 milioni di accantonamento sui crediti. E il numero uno, l'amministratore delegato Ghizzoni, dice: oggi siamo più forti rispetto a un anno fa. Anche di questo parleremo nella pagina di borsa. 349-238-6666 per i vostri sms e la pagina di Focus Economia su Facebook. Restando in tema di economia, di macroeconomia, oggi l'agenzia di rating Fitch ha tagliato le stime sulla crescita a livello mondiale, più 2,2% nel 2013 contro un 2,4% previsto, ma soprattutto ha tagliato le stime della prevista crescita degli Stati Uniti dal 2,3% all'1,9% e anche le stime sull'area euro. Il 2013 si chiuderà in recessione per l'intera area euro, meno 0,5% in media, mentre più 1% dovrebbe essere il risultato dell'anno prossimo. E intanto la settimana prossima 20 banche europee rimborseranno alla Banca Centrale Europea un totale di 6 miliardi e 820 milioni dei maxi prestiti ottenuti, lo ricorderete. 5 banche restituiranno 385 milioni con la prima operazione di finanziamento 3 anni, quella messa in campo da Francoforte a fine del 2011, mentre le altre 15 banche rimborseranno 6 miliardi e 4 della seconda operazione, quella del febbraio 2012, quella che prestò soldi alle banche a un tasso bassissimo, 1%. Ancora del vertice europeo parliamo più avanti, la mia posizione su Juncker ve l'ho già data, un po' imprudente, un po' così. Dare degli italiani che credono alle favole perché votano, non so, Grillo, Berlusconi, immagino, mi sembra uno scivolone, uno, ripeto, lo può pensare ma quando ha quei ruoli non lo può dire. Nel frattempo però oggi un'indagine fatta dal Centro Studi Mediobanca e da Confindustria, ma anche da Unioncamere, quindi chi unisce le Camere di Commercio italiane, segnala come senza il peso del fisco, cioè se le imprese italiane avessero una tassazione simile a quella delle grandi aziende e di quelle tedesche, sarebbero al primo posto in Europa per solidità patrimoniale, mentre adesso sono all'ultimo posto. È una ricerca che si sviluppa sulle società che hanno un fatturato tra i 15 e i 330 milioni e con addetti tra i 50 persone e 500 persone. Lo dico perché poi è giusto parlare di patrimonializzazione delle imprese, ma è giusto anche ricordare che questa patrimonializzazione avviene erosa dalla pressione fiscale e la ricerca appunto lo dimostra. Nel giorno in cui la Confesercenti ha fatto sapere che sono crollate tra gennaio e febbraio, cioè nei primi due mesi dell'anno, le nuove aperture, sono spariti tra gennaio e febbraio 10.000 negozi con un vistoso crollo delle nuove aperture, meno 50%. Perché? Perché hanno chiuso i battenti 13.755 aziende. Le nuove aperture sono state 3.990, ecco perché si arriva a 9.700 imprese come saldo negativo in meno, tra quelle chiuse, quelle nate ce ne sono 9.700 in meno. Praticamente sono, lo dico perché il dato fa impressione, 167 imprese commerciali al giorno in meno. Se si dovesse mantenere questa tendenza, che tra l'altro anche nei primi tre mesi il saldo è negativo di 14.600, ci cioè hanno chiuso 20.622 attività commerciali e ne hanno aperte, se ne sono aperte solo 6.000, beh, se la tendenza dovesse mantenersi per l'intero anno, il saldo negativo, la differenza tra quanti hanno chiuso e quanti hanno aperto, sarebbe negativo per 60.000 imprese, che vuol dire 60.000 famiglie, giusto per farsi capire, eh? E sul tema delle imprese e soprattutto degli oltre 120-150 miliardi di debiti che la pubblica amministrazione ha con le piccole e medie imprese, tema su cui era intervenuto, ricorderete, due giorni fa anche il capo dello Stato Giorgio Napolitano, oggi il ministro Passera, perché è ancora ministro, ministro dello sviluppo economico, nel corso del nostro programma 9 in punto ha assicurato che l'impegno sui pagamenti c'è e che potrebbe avvenire anche a fine governo, anche con un governo che è a fine del suo mandato. I debiti che si hanno nei confronti delle imprese vanno pagati, punto, e bene ha fatto la Spagna. Vanno pagati e le risorse vanno trovate, può essere come ha fatto la Spagna attraverso delle emissioni, può essere in parte attraverso emissioni di titoli di Stato, in parte può essere attraverso cessioni di altri attivi, però non c'è dubbio che questo va fatto. Diverso è il discorso che lei giustamente ha riferito della procedura di certificazione, cioè quali debiti vanno pagati, quelli certificati e riconosciuti. Ecco, la procedura che il Ministero dell'Economia e delle Finanze, insieme alla Ragioneria, hanno messo a punto è un sistema che fino a dicembre era addirittura cartaceo, quindi sicuramente farraginoso, adesso è informatico, quindi comunque hanno fatto un passo avanti. Il fatto che però non ancora tutte le amministrazioni siano collegate e quindi sia un sistema che solo parzialmente può essere utilizzato va risolto, cioè tutte le amministrazioni si devono iscrivere a questo sistema, deve essere quasi automatica la certificazione in modo tale che non solo si arrivi poi al pagamento, ma nel frattempo si possa scontare in banca, si possa fattorizzare, si possa cedere questo credito e dove necessario e dove possibile compensarlo con eventuali debiti che l'impresa ha nei confronti del fisco. Come Ministero dello Sviluppo Economico abbiamo messo gratuitamente l'assicurazione su questi crediti certificati per poterli rendere più facilmente liquidabili in banca. E poi il ministro Passera è tornato sul caso della Bridgestone, ricorderete inizialmente con una forma anche poco ortodossa, il gruppo aveva annunciato la chiusura dello stabilimento di Brindisi, poi si erano aperti due giorni fa degli spiragli di trattativa, non più diciamo una decisione irrevocabile, e infatti il gruppo Bridgestone ha dato la sua disponibilità a valutare soluzioni alternative, e su questo è tornato il ministro Passera, che ha condotto personalmente in questi giorni le trattative con la Bridgestone. Siamo stati sufficientemente convincenti e alla mia richiesta la risposta è stata responsabilmente da parte dell'azienda un sì, rinunciamo all'irrevocabile. Che prospettive vede da quel lato, ministro? È una situazione non facile, quella dei pneumatici in Europa è una situazione che in tanti paesi ha già portato molte chiusure, a molte riduzioni, però prima di decidere di chiudere uno stabilimento che da 50 anni è un pezzo importante dell'economia pugliese, abbiamo concordato tutti, azienda, amministrazioni locali e ministero, di esperire tutte le possibilità per renderlo concorrenziale e per giustificarne la sopravvivenza. Quindi ci metteremo tutti a trovare le ragioni per compensare quelle che hanno portato l'azienda invece a decidere l'opposto. Ultima battuta di Passera, a chi gli ha chiesto appunto, insomma, una spezia, ma insomma l'Italia potrebbe uscire dall'euro, battuta molto laconica ma anche molto chiara. Ma non diciamo sciocchezze, cioè l'Italia è pienamente nell'euro, se tutti avessero i conti sotto controllo come l'Italia non ci sarebbe neanche un problema euro, quindi non, cioè, chi dice cose di questo genere veramente non sa di quel che parla. Abbassare, potrebbe più, la sposa in bianco, il maschio forte, i ministri puliti, i buffoni di corte, ladri di polli, super pensioni, drag e più, ladri di Stato e stupratori, il grasso ventre dei commentatori, diete politicizzate, evasori legalizzati, drag e più, auto blu, sangue blu, cieli blu, amore blu, rock and blues, drag e più. Eh sì, oggi è a cavallo tra non te reghe più e ma cos'è questa crisi, perché arrivano segnali che noi raccogliamo, perché raccogliamo sia quelli alti macroeconomici di analisi che quelli terra terra. Allora, a Palermo, mentre all'Assemblea regionale siciliana, alla Regione Sicilia, è scoppiata la guerra del parcheggio perché ci sono dei lavori in corso nel piazzale alle spalle dell'ingresso principale. I posti si sono ridotti per motivi di sicurezza e quindi l'amministrazione ha redatto una vera e propria scaletta scandendo i tempi della sosta in base, tra virgolette, al ruolo svolto, la casta. I privilegiati sono sempre i parlamentari, poi tocca ai dipendenti dell'Assemblea che hanno tempo fino alle 9.30 per lasciare l'auto, quindi se c'è ancora spazio il personale dei gruppi parlamentari, ultimi i dipendenti degli enti. Molti dipendenti quindi restano fuori, impossibile trovare posto per tutti, dovrebbero essere i commessi addetti al servizio di portineria a fare da vigili, ma si rifiutano di farlo, e quindi tra l'altro l'accesso è consentito prima alle piccole cilindrate e poi via via a quelle più grandi, ma insomma, sono problemi risolvibili, cioè i comuni cittadini parcheggiano dove trovano posto. Ma in realtà da Palermo arriva una notizia che la dice lunga. Ieri il centro commerciale, dentro il centro commerciale Concadoro, l'Expert offriva elettrodomestici al prezzo di un euro. C'erano 50 pezzi disponibili per ciascun prodotto, lavatrici, 50 lavatrici, 50 televisori, 50 smartphone. Insomma, una res vera e propria. Centinaia di persone che correvano all'interno del centro commerciale, donne colte da malore, una di loro ha riportato una frattura del polso, due giovani fermati per furto. Nonostante il raddoppio degli addetti alla sicurezza, i locali hanno comunque riportato danni. Altrettanto ressa, ma al centralino, questa volta a Vicenza. Che è successo? Su un mensile gratuito della città che si chiama La Piazza, una onlus vicentina ha detto che stava cercando un addetto cercasi addetto alla stalla di Capi Caprini, tempo pieno, orario spezzato. Praticamente sono arrivate centinaia di telefonate per fare l'allevatore di capra. Ancora a Bologna si stanno utilizzando squadre di disoccupati per formate con dei corsi per ripulire scuole, musei, gli edifici del comune dai graffiti. I fondi probabilmente giungeranno dalla tassa di soggiorno. Infine, a Padova la Germania offre posti di lavoro, nel senso che c'è un bando online che offre la possibilità di un lavoro in Germania per candidati tra i 18 e i 35 anni. Hanno risposto subito in 200. Le figure sono di ogni genere, dall'ingegnere meccanico al medico specializzando, dal cuoco informatico al tornitore all'idraulico. È un'operazione di scouting, cioè di ricerca di giovani talenti, e si rivolge agli studenti dei tre indirizzi della scuola, che devono però avere un'ottima conoscenza del tedesco. Chi ottiene la certificazione ha la possibilità di andare in Germania per 3 anni con vitto, alloggio e corso di lingua pagati dall'organizzazione, e si può abbinare la formazione professionale al lavoro con una retribuzione in aumento di mese in mese, oppure l'attività in azienda allo studio universitario, quindi alternare l'una all'altra. La dice lunga su nuove forme di emigrazione, e più che immigrazione, ma emigrazione dentro il paese e anche fuori dal paese. Problemi diversi, diversissimi. Da questo punto di vista invece ha la Cina, che oggi conosce un nuovo primo ministro, Li Keqiang, 57 anni, è un principe, nel senso che è figlio, come dicevamo, di uno dei rivoluzionari della prima ora, insieme al presidente Mao Zedong, è sposato ad una famosa cantante ed è considerato un riformista prudente, ma attenzione, un acceso nazionalista. Certo, Xi dovrà affrontare problemi come la dilagante corruzione, le crescenti differenze tra ricchi e poveri, i danni provocati anche all'ambiente in alcune città, Shanghai su tutte, l'inquinamento ormai a livelli insostenibili, e dicevo i danni provocati all'ambiente dallo sviluppo senza freni di questi anni. Lui ha sottolineato già la necessità di uno stile di lavoro modesto e di evitare gli eccessi di servilismo spesso mostrati dai leader delle province verso quelli nazionali. E poi però mostrò il suo volto cattivo 4 anni fa, quando in una visita in Messico accusò alcuni stranieri con la pancia piena di criticare la Cina a vanvera. Io vorrei capire che cosa potrebbe cambiare per gli italiani, per gli stranieri che operano regolarmente con la Cina e in Cina. E allora torna in collegamento una vecchia conoscenza di Radio 24, l'amministratore delegato della Yesa Investment, da 20 anni vive in Cina, vive tra Shanghai e Pechino. Saro Capozzoli, buonasera. Buonasera. Buonanotte forse, vista l'ora lì. Senta, Capozzoli, a noi questo è un programma di economia, quindi la parte politica sulla Cina interessa marginalmente. Mi interessa capire, da un nuovo presidente definito riformista prudente ma anche un acceso nazionalista, che cosa potrebbe cambiare nei rapporti commerciali tra Cina e il resto del mondo e anche per l'attività delle imprese italiane in Cina? Le opportunità saranno da vedere, perché dipenderà dalla direzione delle riforme che loro attueranno. C'è da notare una cosa: il vecchio Politburo, composto da 9 persone, era composto più che altro da ingegneri, e Li Keqiang era l'unico economista. Quindi era un momento in cui c'era da costruire un paese, infrastrutture, e le persone competenti erano gli ingegneri. In questo nuovo Politburo, i 7 componenti, praticamente gli ingegneri sono solo 2, tutti gli altri sono praticamente economisti e sociologhi, no? Quindi si vede qual è l'attenzione sarà l'attenzione verso la società, verso lo sviluppo e verso l'economia. C'è un'attenzione più, diciamo, un po' più, meno, diciamo, fatta di ferro e cemento, ma più di attenzione verso la popolazione. Quindi io immagino, stando qui vedendo quello che succede, ci sarà un grande attenzione allo sviluppo interno, quindi nel mercato interno. E quindi gli sviluppi per le nostre aziende saranno più che altro commerciali e di opportunità, diciamo, di mercato più che industriali, perché ormai la Cina a livello industriale è matura in tanti settori, no? Ha bisogno di sviluppare comunque un consumo, da quello che vedo anche da questa scelta del Premier, anche più consapevole, perché lui ha sempre portato avanti questo, appunto, come dicevi, la teoria, appunto, che la Cina non può permettersi di fare come gli Stati Uniti, sennò il mondo andrebbe a gambe all'aria, cioè un consumo più, diciamo, sostenibile, consapevole. Diciamo, consapevole e sostenibile. Quindi lei dice, attenzione, perché essendo un economista e non un ingegnere, in una Cina che in questi ultimi anni si è molto infrastrutturata, cioè le reti ferroviaria ad alta velocità, con qualche problema iniziare, gli aeroporti, quant'altro, non è più la Cina che ha bisogno di aeroporti, strade, autostrade, ponti e ferrovie, è una Cina che ha bisogno di iniziare a sviluppare anche un mercato interno un po' più solido, ed è probabile che questo porti anche a una certa redistribuzione. E quindi, se ho ben capito, il consiglio alle imprese italiane: attenzione, ci saranno sempre meno ponti e cantieri grandi da aprire, è sempre più un mercato da servire. Da questo punto di vista noi potremmo essere un po' più avvantaggiati rispetto alla Germania, che è il grosso soggetto europeo in Cina, visto che loro sono molto forti proprio sull'approccio infrastrutturale, le grandi opere si muovono appunto come un panzer. ma sugli stili di vita magari qualche chance in più ce l'abbiamo anche noi, o no? Certo, perché c'è bisogno di creare servizi e di dare servizi. Quello però c'è un'altra faccia della medaglia, il fatto che però bisogna essere presenti per dare questi servizi. Non possiamo pensare di stare in Italia e di fare un servizio stando in Italia. Cioè, questo è un problema, che è il nostro dilemma. Cioè, le nostre imprese hanno difficoltà a volte a decidere di muoversi, venire qui, aprire gli uffici commerciali. Addirittura quello che si chiede qui, aprire i negozi. Qui ci sono i mall che chiedono sempre più brand nuovi e nuovi marchi. Il mall sarebbero i centri commerciali. Centri commerciali. Qui in Cina se ne apre uno al giorno. Cioè, in tutta la Cina ci sono più di 700-800 città, tenete conto, ci sono più di un mall, centri commerciali enormi, dove ci sono centinaia di negozi dentro al giorno. Questa è la statistica dell'anno scorso, ma si sta ripetendo anche quest'anno. Quindi c'è bisogno proprio di, c'è una grande fame proprio di commercio, e molto nelle città interne alla Cina, perché diciamo che c'è quasi una saturazione sulle coste, quindi purtroppo le nostre aziende vengono in Cina e si cercano di focalizzare sempre su dove però c'è già tanta concorrenza, c'è tanto da fare nell'interno della Cina. Città come Chongqing, che è una città di quasi 40 milioni di abitanti. 40 milioni? Sì, la Chongqing. C'è 34 milioni la città, la cinta urbana, con tutto diciamo la parte esterna della città, siamo intorno a 40 milioni, la popolazione aumenta di 500.000 persone all'anno. E questo è quello che sta succedendo, la grande urbanizzazione che poi richiede servizi e richiede anche diciamo una presenza puntuale, ed è questo secondo noi a cui bisognerebbe fare attenzione, e per questo sono anche una grande occasione per consorziarsi. Quindi noi stiamo battendo molto questo tasso, consorziatevi per poter dare servizi anche su più livelli e poter distribuire in questo modo i costi. Un'ultima domanda, Capozzoli, però il fatto che sia anche un nazionalista vuol dire che poi nelle relazioni diplomatico-commerciali della Cina potremmo tornare a vedere una Cina, ammesso che abbia mai smesso, che va a difendere con dazi e con altre cose la sua produzione, cioè che non ha un approccio così, che non vuole diventare, sostituirsi ai consumatori che spariscono in Europa, per esempio, cioè che non viene facilmente a patti ed accordi? Beh, nazionalisti lo siamo anche noi, siamo protezionisti in tanti settori rispetto ai prodotti cinesi. Noi vediamo il nazionalismo quando loro si chiudono rispetto a certi prodotti, quando loro dicono noi abbiamo qui tante produzioni di scarpe, non vediamo perché dobbiamo, per dire, sto dicendo facendo un esempio, portare altre fabbriche di scarpe, venite a venderle. Qui c'è sempre grande apertura per il commercio, ma per quanto riguarda l'insediamento di aziende in certi settori non sono più benvenuti, perché no, non abbiamo bisogno di quello, abbiamo bisogno mi di dica, per concludere mi dica i settori saturi, così chi è in ascolto magari avesse intenzione di iniziare o approfondire un'attività commerciale in Cina prende le misure. I settori saturi sono i settori tradizionali del garment, cioè dell'abbigliamento, di certi settori dove i cinesi sono diventati molto bravi, proprio importando anche macchinari dall'Italia, importando macchinari dall'Europa. Non hanno bisogno di designer, hanno bisogno di chi porta idee, di chi porta innovazione. Questo sì, loro molte volte hanno l'hardware, hanno i macchinari, sanno produrre, ma non sanno come farlo, come che disegno dare per poter entrare nei mercati anche internazionali. Cioè, questo è quello che cerco in questo momento, più servizi di più alto livello che noi possiamo dare come Italia. Siamo molto bravi su questo, dobbiamo avere il coraggio di venire qui a farlo. :17:42 minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Vedo molti messaggi sulla Cina. Guardate che insomma è inutile, uno può pensarla come vuole, ma io non so se sia solo un'opportunità o una minaccia. So che c'è e so che non si va contro la storia e contro i processi storici, per cui forse è meglio utilizzarla come un'opportunità che non ripetere che è solo una minaccia. Detto questo, come va la... Sì, giustamente uno dice, come può riprendere la nostra economia quando 170 esercizi commerciali chiudono ogni giorno in Italia, dato di oggi la Confesercenti, e in Cina un centro commerciale apre ogni giorno. Vediamo invece la borsa, che sì, è vero, sappiamo tutti, continuano a rispondere sulla Cina, hanno schiavi non lavoratori. Dio, sono un po' migliorate sia i controlli che le condizioni, però è indubbio che la Cina abbia un costo della manodopera più bassa, anche un po' alta per i cinesi, tant'è che spesso le produzioni più basse si spostano in Vietnam. Ma ripeto, tutto questo lo sappiamo, dobbiamo decidere cosa fare. Diventa un mercato per noi interessante dove esportare, oppure ci limitiamo a criticare? La borsa, dicevo, meno 0,43% Milano, meno 0,70% Parigi, meno 0,20% Francoforte, meno 0,60% Londra, e l'America meno 0,20%, e allora borsa sia. Ciao Condina, Radio Corri, Sole 24 Ore, buonasera. Ciao, buonasera a tutti. Popolare Emilia Romagna più 10,48%, ma bene anche il Banco Popolare più 4,20% e la Popolare di Milano più 3,60%. È vero che la Popolare Emilia Romagna aveva perso molto dopo i conti, ma insomma, e sul Banco Popolare e la BPM? Sulla BPM c'è un rimbalzo, ieri era calata di oltre il 2% sulle indiscrezioni riportate dalla stampa di un possibile aumento di capitale di 500 milioni, in questo caso di solito l'aumento di capitale avviene a sconto, quindi ovviamente il titolo si era subito proiettato verso il basso, invece oggi probabilmente il mercato, al di là del rimbalzo, sta anche giudicando diciamo, i risvolti positivi di un'iniezione di capitali freschi nella banca. Il Banco Popolare, anche questo istituto, diciamo che ultimamente ha avuto delle difficoltà, sono però tuttavia attesi oggi i conti del 2012 e sull'attesa gli operatori hanno deciso di privilegiare gli acquisti. Per quanto riguarda invece Biper, hai detto tu che risaliva dai minimi, c'è anche questa pulizia di bilancio che è stata effettuata dalla banca anche dopo la moral suasion di Banca d'Italia sull'accantonamento per i crediti in sofferenza, moral suasion che è stata indirizzata a tutti gli istituti bancari italiani. In più poi c'è questo dato sul core Tier 1 ratio di B, perché fondamentalmente rappresenta uno dei requisiti patrimoniali più sottolineati per l'adeguamento a Basilea 3, che è all'8,27%, un livello molto buono, e gli operatori insomma hanno premiato sia ieri che oggi il titolo. Ancora tra i titoli molto bene oggi A2A più 5,80%, e non è la prima seduta nella settimana. Anche ieri sono stati diffusi i conti 2012, aveva guadagnato quasi il 6%, anche in questo caso siamo alle prese con un titolo che era sui minimi, però effettivamente il bilancio 2012 ha riservato delle sorprese positive, sia un dividendo che resta comunque basso rispetto al passato che era raddoppiato, sia soprattutto un calo dell'indebitamento che resta comunque il tallone d'Achille della società, indebitamento che era salito, ricordiamo, lo scorso luglio a valle del riassetto di Edison a 5 miliardi e alla fine dell'anno, in pochi mesi, anche grazie ad alcune cessioni azzeccate, è sceso a ridosso di 4,3 miliardi. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, dicevamo delle banche e soprattutto di A2A bene, invece oggi di nuovo Enel inflessione dopo i conti di ieri, meno 1,20%, anche Eni che ieri ha diffuso i conti, meno 1,40%. Sì, Enel oggi pagano dazio. Enel, ricordiamo, l'aveva dato i conti l'altro ieri e aveva subito un'autentica mazzata in borsa. Ieri un piccolo rimbalzo, ma oggi, complici anche alcune valutazioni più approfondite del mercato, il titolo è tornato a perdere l'1,2%. Ricordiamo che il 2012 si è chiuso con un autentico crollo dell'utile, meno 79% pesa su questo appunto calo molto secco dell'utile la forte svalutazione della spagnola Endesa per oltre 2 miliardi e mezzo. Ancora i conti di Unicredit, perché insomma l'utile oggi è stato 865 milioni, quindi è tornato l'utile e anche il dividendo nel 2012, ma un po' di delusione c'è stata, il titolo è praticamente rimasto sostanzialmente invariato, dove ce l'ho più 0,6 alla fine, sì, faceva più 0,1, più 0,6 alla fine, prego. Sì, diciamo che il mercato non ha reagito in modo particolarmente, diciamo, univoco ai dati di Unicredit. Prima accelerata, è arrivata a guadagnare quasi il 2%, poi era sceso in negativo, meno 1%, alla fine, come ci dicevamo, più 0,6%. Cosa pesa su questo andamento? Pesa sì il ritorno all'utile netto, sì la mai inferiore alle attese, sì la distribuzione di un dividendo, in questo caso superiore alle attese, ma c'è anche il fatto che Unicredit ha annunciato che saranno rivisti i target finanziari previsti dal piano strategico alla luce delle difficoltà del contesto macroeconomico. In pratica Unicredit si era fissata degli obiettivi da raggiungere, alla luce del perdurare della crisi questi obiettivi saranno abbassati. Ancora do i peggiori: Fiat Industrial meno 3%, Mediobanca meno 3%, Generali di nuovo meno 2,90%. Soffre, eh? Ieri aveva fatto una fiammata, oggi qualche realizzo. Ieri più 9, dopo la grande pulizia di bilancio, oggi qualcuno ha pensato di realizzare i guadagni. Meno 1,70 Intesa San Paolo, meno 1,50 Enel Green Power come ST Microelectronics. Migliori e peggiori in assoluto: Enertronica più 15, Ascopiave più 12 e poi la Banca Popolare dell'Emilia Romagna. I peggiori invece: Acotel Group meno 8,50, Elica meno 5,30% e la Prema Finanziaria meno 3,90%. Grazie a Ciao Condile, buon fine settimana a te e ai colleghi di Radio Coro di Sole 24 Ore. Noi invece adesso ci prepariamo all'ultimo tema, quello delle 18, e quindi come l'Europa ci guarda e in assenza di un governo, però partendo dalle imprese. Già ricordavo lo studio di oggi, Confindustria, Unioncamere e Mediobanca, che dice che se le imprese italiane avessero una tassazione, le piccole e medie, simile a quella tedesca, sarebbero le più patrimonializzate d'Europa, e quindi non è solo un problema degli imprenditori. Ma la cosa interessante è che oggi torniamo a parlare anche di Emilia, chiaramente di terremoto. Parliamo di Emilia oggi, anche se voi sapete che l'appuntamento con l'Emilia che riparte è un appuntamento mensile per Radio 24 alla fine di ogni mese, perché in realtà oggi a Mirandola, nel cuore dell'Emilia colpita dal sisma, ricorderete anche la diretta di Radio 24 da Mirandola, proprio sulla nostra iniziativa l'Emilia che riparte, dicevo, oggi a Mirandola si stanno incontrando 300 giovani imprenditori provenienti da tutta Italia che aderiscono ai giovani imprenditori di Confindustria, perché il loro incontro tradizionale in quest'anno, in questa parte dell'anno, è stato fatto proprio a Mirandola, e quindi ci sono i presidenti delle varie Confindustrie giovani, Emilia Romagna ma non solo, Trentino, Veneto, Friuli Venezia Giulia, perché con un tema molto particolare, start me up, riaccendiamo le imprese, riaccendiamo il paese. Immagino che sia un segnale di vicinanza anche ai loro colleghi ancora in difficoltà nelle zone colpite dal sisma. Lo chiedo ai presidenti dei giovani imprenditori del Trentino Alto Adige, Matteo Lunelli, che è in collegamento con noi da Mirandola. Buonasera. Buonasera a tutti. Buonasera. Dico, l'obiettivo è quello di dare un segnale di vicinanza, no? Ai vostri colleghi che ancora, come noi raccontiamo ogni mese, hanno difficoltà, pur avendo fatto un grosso sforzo a ripartire completamente, con anche lungaggini burocratiche. Assolutamente. Allora, da un lato direi che l'obiettivo è duplice. Da un lato è dimostrare vicinanza a questo territorio, alle sue imprese, alla sua gente, e dall'altro però l'obiettivo è anche quello di prendere esempio da questo territorio che ha saputo ripartire, che ha saputo ricreare tutto sommato un gioco di squadra tra imprese, lavoratori e istituzioni per riaccendere lo sviluppo. In fondo io parlo di esempio perché anche il paese generale d'Italia è un po' terremotata, è stata colpita da una crisi molto forte, e penso che sia bello poter prendere l'esempio da un territorio italiano in cui alcune eccellenze hanno saputo ripartire, in cui la gente ha saputo ripartire insieme. Ecco, lei faceva già il parallelo tra il terremoto, quel drammatico, tragico, dell'Emilia Romagna, di parte della Lombardia e del Veneto, e il terremoto politico di cui parleremo fra poco, che sta scuotendo il paese, e la difficoltà appunto nella nomina dei presidenti delle due Camere la dice lunga su questo, e noi affronteremo il tema anche in chiave poi europea più avanti. Che cosa chiedete al nuovo governo? Nel senso che mi sembra di capire che il terremoto vi lasci molto, molto il terremoto politico vi lasci molto, molto preoccupati. Beh, assolutamente. Beh, chiediamo anzitutto ai politici di avere senso della responsabilità e quindi di lavorare, oggi si riuniscono per le Camere, di lavorare per riaccendere questo paese, per riaccendere lo sviluppo e soprattutto credo che il messaggio che i giovani imprenditori e che Confindustria vuole dare è quello di mettere l'impresa al centro. Come qui a Mirandola, in fondo, come nell'Emilia, l'impresa può essere un motore di sviluppo, può essere anche un elemento che insieme ai lavoratori può dare nuova energia e nuova speranza. Questo chiediamo soprattutto. E poi direi, come giovani imprenditori, l'attenzione ai giovani. Oggi l'Italia è un paese in cui un giovane su tre non ha lavoro, è un qualcosa che non possiamo permetterci, è uno spreco di risorse assolutamente sbagliato, e quindi una delle priorità del nostro paese, se vogliamo ricostruire il nostro futuro, è quello di avere politiche per i giovani, politiche per ridare lavoro e speranza ai giovani. Noi in fondo come giovani imprenditori abbiamo almeno la fortuna di lavorare, di gestire un'impresa, che è un mestiere difficile, che è una sfida, ma abbiamo appunto la fortuna di poterci mettere in gioco. In fondo ci sono tanti giovani italiani che non hanno questa possibilità e quindi chiediamo al governo, chiediamo al Parlamento di mettersi al lavoro per dargli una speranza. Ecco, su questo, visto che parleremo anche dei temi europei, di una parziale apertura della Merkel sulle forme di, non dico di minore austerità, ma di un po' più di flessibilità sugli investimenti, quando si dice politiche per i giovani, però, Lunelli, si intende, in primo luogo, per quello che capisco io, una cosa, cioè defiscalizzare in parte, perlomeno, il salario di ingresso di un giovane, per cui all'impresa costi meno assumere un giovane, o sbaglio? Questo ad esempio è una delle metodologie. In Italia abbiamo un cuneo fiscale che è enorme, probabilmente non abbiamo la possibilità di ridurlo tout court, ma possiamo invece incentivare l'impresa a privilegiare i giovani, e questo è uno delle politiche di cui si parla da tanto tempo e che da tempo noi promuoviamo. In generale credo che quando si aiuta l'impresa si aiuta il futuro anche dei nostri giovani. Prima abbiamo parlato appunto della nostra decisione di spostare il meeting di Cortina, che ha una storia molto lunga, di 26 anni, da Cortina qui all'Emilia. Però non è cambiato il nostro focus. Alcuni anni fa avevamo intitolato il meeting di Cortina "Nonostante tutto impresa". Noi crediamo che gli imprenditori, nonostante tutte le difficoltà, abbiano ancora voglia e abbiano ancora forza per portare il nostro Made in Italy nel mondo. E questo può essere una speranza e un motore di sviluppo per l'intera società civile. Quello che noi respiriamo oggi qua a Mirandola è esattamente questo. L'impresa unita ai lavoratori, ai propri dipendenti e alle istituzioni ha saputo fare un gioco di squadra che ha dato speranza e entusiasmo e energia all'intera società civile. Beh, di nuovo in bocca al lupo a tutti gli imprenditori e gli abitanti delle zone terremotate. E ai giovani soprattutto, ripeto, la defiscalizzazione può essere un'ipotesi, io poi devo andare sul concreto perché è troppi anni che sento la politica dire che bisogna fare qualcosa per i giovani, mentre il tasso di disoccupazione giovanile è a record storico. Poco fa ha parlato il presidente della Banca Centrale Europea Mario Draghi, o meglio si è saputo, scusatemi, vedo adesso le agenzie, che cosa ha detto ieri sera, che in Italia la produttività è ai minimi dell'area euro, che siamo poco competitivi, occorre riformare i contratti e che c'è stata una gelata dei prestiti alle imprese sia in Italia che in Spagna. Minuti, torna Focus Economia con Sebastiano Barisoni. Allora adesso ci occupiamo da un lato dei giudizi sull'Italia arrivati dall'Europa e dall'altro su quello che sta succedendo in Parlamento e i giudizi che rischia di generare in Europa. Il tempo stringe, si potrebbe dire, nel senso che non capiamo quanto questa Pax, questa pace, questa calma sullo spread, sui mercati e anche sulle dichiarazioni possa durare. Il rischio è, lo dico subito, che lo stallo sulla nomina dei presidenti di Camera e Senato inizia a essere una cartina tornasole di quanto dell'impasse complessiva della nostra politica dopo l'esito elettorale. Andiamo con ordine però, perché è appena arrivata una notizia che riguarda il Banco Popolare. Prima commentavamo la borsa, chiude il 2012 con una perdita pesante che sfiora il miliardo di euro, tra l'altro soprattutto o per buona parte dovuta all'andamento di Agos, che è la società che fa finanziamenti, fa credito al consumo. Ricordo che oggi il Banco Popolare ha chiuso con un rialzo del 4,21% prima che uscissero però i dati. Nel frattempo a Bruxelles sono ancora in corso i lavori del Consiglio europeo, a cui non partecipa oggi Mario Monti, che è rientrato appunto in Italia per partecipare all'insediamento delle Camere. Teoricamente tiene banco il salvataggio di Cipro e poi stanno cercando una formula per andare in aiuto di Nicosia, però in realtà le dichiarazioni sono arrivate anche e soprattutto sull'Italia. Si lavora un accordo, Angela Merkel, oggi molto molto prudente, tra virgolette ragionevole, dice non sarebbe saggio lasciare Cipro a se stessa. Tra l'altro la Commissione proporrà al Consiglio europeo di dare al Portogallo un anno in più per correggere il suo deficit eccessivo. E poi però anche Angela Merkel è tornata sull'Italia e ha detto: non abbiamo mai auspicato una grossa coalizione per l'Italia, una coalizione allargata, io non è nel mio stile interferire con la politica interna degli stati, però si è detta d'accordo con la richiesta presentata ieri da Mario Monti di utilizzare la Golden Rule, la flessibilità prevista dal patto di stabilità, per tornare a fare investimenti. Ha detto infatti Angela Merkel: Monti ci ha detto che il patto di stabilità lascia un margine di manovra e che l'Italia vuole usarlo, ma che resta obbediente e fedele al patto. È sembrato a tutti un sostanziale via libera. Sentiamo questo passaggio. Ich habe generell die Eigenschaft, mich zu Regierungsbildung in anderen Ländern nicht zu äußern und deshalb auch. È assolutamente corretto che si possa avere maggiore spazio per gli investimenti, come previsto. Monti ci ha detto che il patto di stabilità lascia un margine di manovra e che l'Italia vuole usarlo, ma che resta obbediente e fedele al patto. Si può ricorrere al preventive arm del patto di stabilità quando ci si trova con un deficit sotto il 3%, e l'Italia è lì. Non ho mai detto che in Italia vorrei una grosse coalizione, ma solo che non sarebbe male vedere un governo il prima possibile. Non ho l'abitudine di interferire con la politica interna degli stati. Das möchte Italien nutzen und das finde ich absolut richtig. Di Italia ha parlato anche François Hollande, il numero uno francese. Ha detto una cosa a mio avviso molto importante, che ripetiamo modestamente da settimane. Attenzione, dall'Italia arriva un messaggio e una lezione, dalle elezioni italiane per la precisione. Quando il risanamento procede troppo in fretta, allora il rischio è il rigetto dell'Europa in quanto tale. Questa appunto è la lezione che deve essere assolutamente imparata e che arriva dall'Italia, dove il premier Francis Hollande comunque riconosce che è molto difficile trovare una maggioranza. Si il n'entrevoit pas la croissance, l'espérance. Se non si riesce a intravedere la crescita, la speranza, il rinnovamento in decisioni che sono difficili da prendere sul fronte del risanamento dei conti pubblici o del miglioramento della competitività o delle riforme strutturali, allora il rischio è il rigetto. Il rigetto non solo dei singoli governi, ma dell'Europa in quanto tale. E quindi è questa la lezione che deve essere assolutamente imparata. Circa la situazione politica italiana, non è mio compito giudicare. Sarà il Presidente della Repubblica che dovrà fare la scelta di designare il Presidente del Consiglio che cercherà una maggioranza, cosa che sembra difficile. Ma è nell'interesse del popolo italiano e quindi non dubito che le forze politiche ci lavoreranno. L'interesse del popolo italiano, je ne doute pas que les forces politiques y travailleront. Il nostro Sergio Nava è sempre lì a Bruxelles. Buonasera, Sergio. Buonasera. Allora, dicevo, Cipro e anche la Siria, perché poi sul fronte della politica estera in senso stretto c'è una posizione anche molto molto articolata. La Merkel è contraria a revocare l'embargo, la posizione del Regno Unito è minoritaria, però mi sembra che sotto traccia anche oggi la giornata sia stata dedicata all'Italia e soprattutto di reazioni alla lettera di Mario Monti, a quello che è un po' il lascito, non dico testamento perché porta, può portare male, ma insomma il lascito dell'esperienza di Mario Monti. Sì, di fatto nei commenti, soprattutto nelle conferenze stampa, perché oggi alla fine di economia si è parlato abbastanza poco, più di politica estera, e poi ricordiamo anche che è in corso l'Eurogruppo su Cipro per trovare una soluzione per quanto riguarda il salvataggio, appunto nelle conferenze stampa si è tornati molto sulla questione Italia, sulla questione Monti. Sia la Merkel sia Hollande hanno di fatto dato anche l'onore delle armi, possiamo dire, a Mario Monti, ed è anche un po' paradossale, se vogliamo, che Monti raccolga i frutti, almeno nei messaggi che arrivano dagli altri leader, quando ha definitivamente lasciato il vertice. Ed è cruciale, la citavi tu, la lettera che ieri Mario Monti ha indirizzato al Presidente del Consiglio europeo Van Rompuy, in cui ha ripercorso l'anno e mezzo, diciamo, vissuto pericolosamente al suo governo e ha tratto delle lezioni anche importanti, dicendo: attenzione, se non investiamo di più in crescita, se non aumentiamo i margini di flessibilità quando i conti pubblici sono a posto, il rischio è che i populismi poi montino e arrivi anche e si arrivi anche a risultati elettorali come quelli che avete visto in Italia. Attenzione, bisogna cominciare a investire di più, ad allentare anche dei vincoli, in modo, lui citava ad esempio la riduzione del carico fiscale sul lavoro, ma questo è solo un esempio delle proposte che fa Monti, per evitare che poi l'Europa sia sinonimo di come dire, troppo rigore, troppa povertà e deterioramento anche delle condizioni sociali. Allora, la vera domanda però è, dopo le dichiarazioni della Merkel, questo poi si tradurrà in un'azione concreta? Cioè, poi si arriverà a una decisione per cui i vari paesi, perché poi la Spagna ha le sue esigenze, l'Italia le sue, potranno avere un po' più di margini di manovra? Allora, è difficile dirlo, e spiego anche perché. Perché queste, diciamo, queste aperture in realtà si erano già viste anche nel Consiglio europeo di dicembre, cioè di 3 mesi fa, non sono totalmente nuove. Diciamo che la novità è che Monti le ha messe per iscritto, le ha lasciate, come dicevi tu, un po' come lascito testamentario politico, e le si è commentate. Ora, quello che spiegavano fonti italiane poi ieri sera dopo la conferenza stampa di Monti è che la palla passa alla Commissione, che in qualche modo deve identificare e mettere per iscritto e proporre quanto margine può essere concesso ai paesi che, avendo i conti in ordine, che quindi rimangono sotto il 3% del rapporto deficit-PIL, quanto margine si può lasciare affinché possano investire, fare investimenti pubblici, quindi scorporare anche dal calcolo del deficit, la cosiddetta golden rule, gli investimenti in crescita, e anche chiaramente possono allentare un po' il carico fiscale. Questo tecnicamente dovrebbe farlo la Commissione e nei prossimi mesi poi portarlo anche all'approvazione dei governi. È difficile dire se tutto ciò si tradurrà in qualcosa di operativo già a fine anno, perché ricordiamo che da quest'anno sulla manovra 2014 occorrerà il parere della Commissione europea. La Commissione europea potrà dire: cambiate questo, cambiate quello, ci sarà un maggiore controllo europeo sui bilanci nazionali. Difficile dire se già questo cambio di rotta, questo allentamento dei vincoli ci sarà per i paesi che, come l'Italia, stanno rispettando il pareggio, i parametri di Maastricht, se ci sarà già a fine anno oppure no, però qualcosa dovrebbe succedere, almeno così si auspica, nei prossimi mesi. Curiosamente, ironia della sorte aggiungo io, questo riguarderà il successore di Mario Monti e non più Mario Monti. Ecco, sì, vorremmo anche sapere chi riguarderà, vista la situazione. Però la domanda più maliziosa, forse, Sergio, è la seguente, che vedo che pongono anche molti ascoltatori. Non è che proprio a causa dell'esito elettorale italiano anche i più intransigenti si siano messi paura? Hollande queste cose le dice da tempo, ma magari anche la Merkel no, e abbiano capito che qui o si allenta o si dà anche la possibilità di fare investimenti oltre che di tenere i conti sotto controllo, oppure il caso italiano dal punto di vista politico rischia di diventare un caso europeo, cioè che con la pancia vuota si voteranno sempre soluzioni estreme? Cioè, non è che la paura è servita a Bruxelles? Il messaggio messaggio secondo me è passato, perché lo si è sentito anche in conferenza stampa da parte del Presidente della Commissione, del Presidente europeo. La Merkel, che va molto bene tra l'altro nei sondaggi, insomma la sua politica di rigore la sta ripagando molto bene nei sondaggi preelettorali in vista del voto di settembre, pare comunque ammorbidirsi, forse anche un po' più tranquillizzata dalle prospettive che ha sul voto prossimo, però ricordiamo anche che i falchi storici come la Finlandia, per esempio, ancora ieri sembravano molto intransigenti sull'allentamento dei vincoli di bilancio, quindi diciamo i paesi più piccoli e nord non sembrano ancora così favorevoli a questa. Sì, vabbè, ho capito, ma insomma i paesi massimi, parliamo della Germania. Con massimo rispetto, sono paesi piccoli del nord, appunto, per cui al di là della frase di Juncker che oggi commentavo come inopportuna, perché insomma dire che gli italiani credono alle favole e lo dimostra il voto elettorale, poteva anche risparmiarsi da Juncker, beh, potremmo dire che forse per ora la parte più positiva, l'effetto più positivo del voto italiano è stato quello di non dico portare miti consigli, ma insomma far ragionare anche i più intransigenti. Nel ringraziare Sergio Nava in collegamento con noi da Bruxelles, saluto invece l'editorialista del Sole 24 Ore Guido Gentili. Buonasera Guido. Buonasera a voi. Buonasera. Beh, l'unico risultato forse, no? Per quello che vediamo. Sì, l'unico risultato a Bruxelles, purtroppo non a Roma, ecco. Perché la situazione di questo parliamo dopo il traffico. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. Strade in diretta. Buonasera, traffico bloccato per un mezzo pesante che ha preso fuoco sulla 3 Salerno-Reggio Calabria tra Mormanno Scalea e Campotenese in direzione di Reggio. Sul tratto lombardo della 4 ci sono 8 km di coda in uscita da Milano per un incidente tra Monza e Cavenago in direzione di Brescia. E c'è un incidente anche sulla tangenziale ovest di Milano, ci sono code all'altezza di Rozzano verso i Laghi. Sulla 22 del Brennero sono i lavori a causare 2 km di coda tra Bolzano Sud e Bolzano Nord in direzione Brennero. Prudenza per il maltempo, grandine in Sicilia, attenzione sulla 20 Messina-Palermo tra Brolo e Santo Stefano di Camastra. C'è vento forte invece in Liguria, chiuse a telonati, furgoni e caravan la 10 tra Varazze e Voltri e la 26 tra la 10 e Masone. Ed è tutto, torniamo tra mezz'ora. Focus Economia. Ultima parte di Focus Economia, dunque, Guido Gentili, la domanda è molto semplice. Abbiamo capito che un effetto positivo, ce lo raccontava il nostro Sergio Nava, c'è stato perché l'Europa si è presa un po' paura del voto italiano, Hollande l'ha detto in maniera molto chiara, bisogna imparare dall'Italia il rischio che si corre a fare manovre troppo in fretta, e anche Angela Merkel ha detto sì all'idea di Monti di utilizzare la Golden Rule. Però, vedendola questa volta da Roma, non da Bruxelles, per quanto tempo ancora possiamo andare avanti con questo stallo senza che qualcuno dica attenzione al re nudo? Cioè lo spread è tutto sommato sotto controllo, 310, 315, 320. La borsa non si muove sul rischio paese. E i leader europei prendono atto. Però, come oggi giustamente scriveva anche Stefano Folli, qua, il fatto di non riuscire a trovare nemmeno il presidente delle due Camere può iniziare a diventare il primo segnale che la situazione è veramente complicata, Guido. Certamente è così, purtroppo il re è già nudo, diciamo, c'è qualche, diciamo da Bruxelles riguarda qualche copertura, ma la situazione è oggettivamente una situazione da un lato confusa e dall'altro che dimostra una paralisi, uno stallo senza precedenti, direi, nella storia politica italiana, perché si procede in questo momento, in queste ore, con una navigazione assolutamente a vista, cioè nessuno sa come, quali saranno gli sviluppi della situazione domani. La mia impressione è che si sia un po' la classe politica dopo il voto abbia nel suo complesso, senza escludere nessuno, abbia sbagliato un po' schema, nel senso che ci sia infilati in questa in questa battaglia pregiudiziale quasi, sapendo che i numeri usciti dal voto non consentivano una maggioranza solida predefinita, quindi bisognava entrare piuttosto nel concreto per cercare una soluzione. Mi sembra che Bersani si sia intestardito invece a cercare un accordo con il Movimento 5 Stelle, accordo che non è arrivato fino a questo momento, e temo che i prossimi giorni passeranno ancora all'insegna di questo tentativo. Poi toccherà in qualche modo al Presidente della Repubblica sciogliere questo nodo. Sì, c'è un ascoltatore che suggerisce di fare come col Vaticano, visti i tempi, di chiuderli in conclave a Montecitorio, pane e acqua, adesso pane e acqua è eccessivo, finché non escono con un governo. Vabbè, non so se tecnicamente non si può fare, ecco, mettiamola così. Comunque, le possibilità per uscire da questa impasse, perché anche oggi abbiamo visto una dichiarazione di Hollande e anche della Merkel che dicono la stessa cosa sostanzialmente: non è facile arrivare a un accordo in Italia, a una maggioranza politica, è difficile trovare una maggioranza in Italia, ha detto Hollande, pur dicendo che si fida del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Ecco, io chiedo aiuto a te, perché obiettivamente, pur seguendola tutti i giorni, no, non riusciamo a capire quale possa essere il punto di uscita o punto di caduta, come volete voi. Beh, diciamo, dobbiamo aspettare che le indicazioni sono quelle che sono, quindi aspettare che il tentativo di Bersani di accordo con il Movimento 5 Stelle finisca e quindi si inizia poi una partita nuova, ma dobbiamo sempre tener conto di quella che è, ripeto, la realtà uscita dal voto, cioè i numeri, con questi numeri solo con un accordo ad ampio raggio si può ottenere una maggioranza stabile, altrimenti l'unica prospettiva è d'altra parte il ritorno al voto, probabilmente sarebbe una cosa sciagurata perché inizierebbe di nuovo una campagna elettorale che peraltro non mi sembra ancora nemmeno del tutto ancora finita quella precedente. E quindi mentre l'Europa sta a guardare, ma come dicevi tu all'inizio, la pazienza poi finirà anche questa dei mercati, perché da una fase di tregua quasi armata rischiamo poi di passare a una fase invece di non più di tregua ma di vera e propria guerra sui mercati. Questo ci metterebbe in ginocchio in pochissimo tempo in assenza di un quadro politico stabile. Quindi io spero nella saggezza di ciascuno, che capisca che veramente abbiamo un tempo contato da questo punto di vista. Sì, detto questo, abbiamo visto diverse ipotesi, ma almeno sulla presidenza delle due Camere, tu ritieni che con gli ultimi sviluppi si è ipotizzato lo stesso Mario Monti al Senato, cioè che almeno lì ci possa essere un accordo, una volta si sarebbe detto bipartisan? Ma che a quel punto l'accordo per Monti al Senato sarebbe un accordo tipo la strana maggioranza che ha sostenuto il governo Monti fine a poche settimane fa, perché questa sarebbe l'unica maggioranza possibile. E quindi questo avrebbe un senso se si ritornasse a ridiscutere su un'ipotesi di questo genere, cosa che però il PD ha escluso, no? un riparlare, almeno fino a questo momento, di riparlare di un'ipotesi di questo tipo, di una rifare una strana maggioranza, perché sappiamo tutti che questo darebbe la possibilità di un accordo di larga intesa, chi lo chiama invece di un compromesso lo chiama negativamente, lo definisce un inciucio, un tornare a parlare con Berlusconi, questa è un'ipotesi esclusa nel PD, e quindi però è una situazione in cui proposte un po' stravaganti e veti incrociati tende sempre poi a bloccarsi e a determinare lo stallo che cui siamo di fronte. E quindi anche la soluzione Monti può arrivare se c'è un accordo di fondo e non in modo così improvvisato, perché altrimenti tra poco ci ritroveremo nelle stesse condizioni. Sì, diciamo così, il titolo potrebbe essere poche idee ma confuse, mi sembra palese, ed è passata un'altra settimana che si conclude per quello che riguarda il programma in questi minuti. Grazie, chiaramente un buon fine settimana a Guido Gentili, a Mauro Del Corno e Barbara Bianchi per l'assistenza in redazione anche questa settimana, a Pietro Lacorte per l'assistenza in regia. Noi ci risentiamo lunedì dalle 17 in poi, sia che lavoriate che non lavoriate. Comunque, da Sebastiano Berisoni un augurio di buon sabato e domenica. Radio 24, la passione si sente.